Amici di Ramtime, buonasera e bentrovati ad una nuova puntata live di OGM, oltranzisti, gastricamente maleducati, rigorosamente in Covid Edition. Prima di salutare le persone che mi faranno compagnia in quest'oretta di diretta di questo lunedì pomeriggio, un momento di istituzionalità che abbiamo voluto istituire qui per collegare un po' meglio tra loro tutti i format di Ramtime, vi lascio col promo di un nuovo format che abbiamo inaugurato la scorsa settimana con il teaser, ed è Gli scimmioni non leggono Nietzsche, scusate mi sono impappinato, che è un podcast su libri, un vadevil irriverente di rimandi letterali, libere associazioni, citazioni, concatenazioni, dove noi scimmioni scendiamo un po' dagli alberi, se non proprio per seguire virtù e conoscenza, almeno per ricordarci che, come ha scritto Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Caro, lo sai che su Ramtime Radio è partito il mio podcast e gli scimmioni non leggono Nietzsche? Perché proprio Nietzsche? In questo tempo di nazionalismi e xenofobia ci mancava il teorico del superuomo. Ma no, ma vedi, Nietzsche è spesso frainteso. Il superuomo in realtà è l'Übermensch, l'uomo oltre. Vabbè, vai avanti. E parlerò di libri. Non lo ascolterà nessuno. Sì, ma non in modo tedioso. E senti qua cosa ho scritto per la presentazione. Un vaudeville irriverente. Vaudeville? Ma ti rivolgi ai nostalgici di Macario? Libere associazioni. Troppo psicanalitico. Citazioni. Quotes. Concatenazioni. Ripetitivo. Dove noi scimmioni scendiamo per un po' dagli alberi. Troppo darwiniano. E se non proprio per seguire virtù e conoscenza. Ci mancava Dante, adesso il livello zero della citazione. Almeno per ricordarci che, come ha scritto Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Che ne pensi? Me Tarzan tu Jane. Facciamo così, tu non ascoltare, ti faccio un disegno. Gli scimmioni non leggono Nietzsche, un podcast sui libri. Ma che cavolo dici? Dai, spegni il microfono, dai. Già, no, stai, no, aspetta. E quindi amici di Ramtime, di nuovo buonasera e bentornati. Avrete capito che alle redini di questo nuovo format ci saranno alcuni dei pezzi da 90 di Ramtime. Uno l'avete riconosciuto senz'altro, anche se forse non l'avete mai sentito ridere prima, perlomeno a me non era mai successo. Ovviamente parlo del nostro Data Nightmare Walter Vannini. Con lui c'è la sua dolce metà, ma avrete modo di conoscere il suo format già da questa settimana, quando verrà messo online il primo episodio, in cui non so di cosa ci parlerà, quindi insomma non posso fare spoiler. Permettetemi quindi a questo punto di salutare i compagni di merende di quest'ennesima live di OGM in versione Covid. Con me ci sono, tanto per cominciare, l'altro padrone di casa, Marco Gualdi, detto il distruggitore, ma ormai non distrugge più niente se non se stesso, vero Marco? Purtroppo non c'è niente da distruggere, non c'è più niente, è tutto distrutto. Ma neanche fuori dalla finestra, Marco? No, allora, fuori dalla finestra c'è praticamente il solito tram, come si dice. No, a Montrondo non c'è il tram, dove che te sta inventando? Il solito bus con ecco. La macchina parcheggiata sul marciapiede, tanto normale. Mentre c'è un uomo con un treppiedi che sta praticamente cercando di entrare dentro al negozio, dentro al mini market, che in questo momento è occupato da ben una persona che ovviamente non può lasciare spazio perché per le regole del Tetris che sono in vigore si può entrare se l'altro esce. Marco, credimi, meglio un uomo con tre piedi che uno con tre gambe, quindi dammi retta, sei più sicuro così. Assolutamente, infatti sono contento di questo, anche se comunque la distanza sarebbe stata debita. Però in questo momento vediamo che c'è l'omino dentro al mini market che sta cercando di pagare, ma si ricorda all'ultimo momento il prodotto di merda che deve prendere all'ultimo secondo. E c'è ancora la bambina con lui, attenzione, colpo di scena. Potrebbe essere una bambina o forse un nano, ma da questa distanza è difficile capire bene la dinamica. Comunque io opterei per il nano, è più pittoresco. Ok, ma qualora fosse la bambina, è ancora in vita, è in non vita, è la bambina che muore, poi magari ce lo dici durante la puntata. No, attenzione, è un ragazzo con due nani. quindi sono un ragazzo con due nani dotati di tutte e tre di maschera, quindi è una cosa eccezionale, fantastica. Come giustamente ci dice Michele Schuren in chat, è un nano ballerina, però magari la citazione la approfondiamo dopo. Mi fai un favore, Marco, vedi se dalla tua finestra, poi guardando meglio, riesci a vedere anche nella distorsione spazio-temporale e vedere se c'è anche lobby frontali? C'è qualcosa che si muove molto lontano, ma non saprei dire. Io non posso girarmi. Agita la mano, vedi un po', che non ho la vedetta a disposizione da lanciare a controllare. Sto girando la mano, mi vedi? Vedo te girare, ma la mano ferma. No, allora va bene. Ok. Sì, in virtù della distorsione spazio-temporale, probabilmente vedi il negativo di quello che succede. Ci può stare. E salutiamo quindi anche nel caso il nostro Francesco. Vedo il positivo nel caso di Marco. In effetti sì, cioè, come l'avresti potuto dire meglio. E voglio salutare te e voglio salutare anche l'altra metà del comitato tecnico scientifico di OGM, che è dal caldo della Puglia, il nostro Carmine Puccio, console e non console, dopo vi spieghiamo perché. Non è videoludica. No ragazzi, caldo un par di ciufoli oggi, insomma non è eccessivo, ci saranno 12 gradi a dire tanto. Buonasera a tutti. Alla faccia del Kaiser, io sto in pantaloncini, maglietta, qui dal fine Terronia, dall'assolata Monte Rotondo. No ragazzi, oggi non è eccessivo. Che voi non so se lo sapete, ma noi Monte Rotondo simpaticamente la definiamo spesso anche Ravenloft. Perché per arrivarci è Twin Peaks, è anche Twin Peaks, è vero, è anche Twin Peaks. Comunque insomma tutte queste assonanze valgono, perché per arrivare a Monte Rotondo, soprattutto dalla Salaria, di solito devi superare dei banchi di nebbia, poi ti si apre un panorama anche abbastanza gradevole tutto sommato per chi lo ha visto. Insomma, nessuno di quelli che hanno visto Monte Rotondo e sono sopravvissuti se ne sono lamentati, insomma. Come dici, Marco? Nessuno è mai tornato. Beh, oddio, per esempio abbiamo Alex, che tra l'altro salutiamo perché ci sta ascoltando, che è tornato spesso e volentieri. Lo stesso Lobby credo ci sia stato almeno un paio di volte, forse di più. Oh, almeno tre volte, forse quattro, figuratevi. Fra perché poco stacco. Tu pensi che sia lo stesso che è arrivato la prima volta? È vero, no, perché stavo quasi proponendo che tipo alla quinta volta, alla decima volta fate fare il giro gratis, sai come fanno le tessere dal parrucchiere. A proposito di parrucchiere, devo chiamare il mio, così il primo giugno vado subito a sistemare un po' di cose, perché si stanno facendo non le doppie punte, io c'ho le idre proprio ai Ti devo ai dare capelli. Una brutta notizia, Lobby, il primo giugno è lunedì. Vabbè, farà un'eccezione, immagino. L'ha fatta apposta. Due è la festa della Repubblica. Esatto, quindi capirai. Non si può fare il barbiere da sport. Vai là e poi tipo ti dai i capelli indietro e cosa ne so. Ma guarda, lo sai che comunque sia, magari se ne vedono pochi, soprattutto al centro nord, ma io al sud mi ricordo il barbiere a domicilio, cioè anche perché era un modo, diciamo, per fare questo business un po' collaterale, è vero, leggermente meno formale. Laterale è il termine che mi piace di più. E quindi no, insomma, hai voglia barbieri a domicilio? Non so, insomma, c'è sta pure la famosa, non so se c'è anche dalle parti tue, Puccio, con ovviamente con una denominazione diversa, a signora siringa, cioè che c'è sempre almeno in un condominio almeno una signora che sa fare le siringhe in tutto il palazzo, che va a fare le siringhe a tutti, che magari non è neanche davvero un'infermiera, è solo una che ha sviluppato questa skill, diciamo, ha messo i punti abilità quando passavi di livello su questa abilità e ha sforacchiato chiappe su chiappe, può essere in sostanza. Ferro, può essere può piuma, essere piuma. Esattamente. Quella è mia madre, del testo, che va in giro a fare siringhe con almeno un dito. Gli raccomando sempre che a determinati condomini sempre un dito d'aria bisogna lasciare. Vabbè, ma tanto fanno le intramuscolari, mica fanno le endovenose. Che cavolo, dai. Metticela sempre, cara. Vabbè, meglio io sono speciale in questa cosa, perché vabbè, a parte che a Putignano erano due infermiere una volta che facevano. Scusa Puccio, prendo la linea un secondo, perché l'uomo con tre piedi ne aveva quattro. Quindi niente, colpo di scena e se ne sta andando. Praticamente un tavolino, Marco ha visto un tavolino e l'ha scambiato per uovo, per nani. Che si muove, perché c'è la mascherina. Sì, ok. Dicevi, scusa? L'intramuscolo io me le so fare da solo e le so anche fare. Sull'endovena avevo imparato, ma saranno 20 anni che non ne faccio. Credo sia leggermente vietato dalla legge fare un indovina se non sei. È vero, però mi è stato insegnato dal genitore medico. Beh, chiaro, in caso, certo, di emergenza, se voleva dire se sto male io. Non ricordo una cosa: gli infermieri le endovena le possono fare o solo i medici? No, le possono fare. Soprattutto gli infermieri. Okay. I medici dopo un po' quasi dimenticano di farle, beh, certo, le fanno tutti gli infermieri. Io per esempio no, giustamente. Io però vi sconsiglio di farvi fare una intramuscolo da mio padre. Cioè, ci avevo ancora i segni in alcuni casi. Guarda, io vi dico la verità, mi è capitato di fare flebo nonché diciamo iniezioni intramuscolari ai gatti. Mi è capitato di fare l'eparina a mia madre quando si ruppe il femore. Insomma, devo dire che ne ho fatte un po', ecco. Sull'intramuscolare non sono particolarmente delicato, ma insomma faccio anche quello. Col pizzico o senza pizzico? Con lo schiaffone o senza pizzico? Pa, un schiaffone con pippac. Pa, scusate. Tanto stavi pure pensando ad altro, Lobby. Sì, vero. Comunque no, diciamo è l'ho percepito dalla voce. Il segreto è l'angolo di entrata nell'atmosfera. Ricordatevi sempre questo. Il segreto è l'angolo. Esatto, va bene. Comunque, ragazzi, fatemi salutare anche gli amici che ci hanno raggiunto in chat. Ci sono con noi Shuren, Rizzard, Al 9000, il buon Alex Raccuglia. E vediamo, insomma, poi chi si paleserà nel corso della diretta. Mi aspetto di arrivare comunque ad altri numeri. Tra parentesi, ragazzi, siamo tutti reduci dalla gratificante fatica del 25 aprile, che è stato un successone. 4 ore di diretta, diciamo spropositata, inusitata, mai vista, veramente mai sentita prima su Runtime, o quasi, perlomeno tra i programmi in diretta. Però devo dire che ha pagato, perché veramente abbiamo avuto un numero di ascolti e di partecipanti live veramente veramente che ci ha riempito di gioia. Sì, e quanti contributi, pure audio raccolti un pochino a destra e a manca. Alcuni sono rimasti fuori, infatti poi con Simone abbiamo deciso montiamoli alla fine della puntata, introducendoli così brevemente, sono stati messi anche quelli, quindi nessuno è stato escluso. Assolutamente. Di quelli che hanno provato a partecipare, perché il 25 aprile è inclusione, non è esclusione, ecco. Poi la cosa bella è che era nata una cosa, ma si faccia una cosa, cioè sto fatto che è durata 4 ore non era in programma assolutamente, ma proprio no. Eh no, no, infatti, vabbè, ci siamo lasciati trasportare dall'entusiasmo, insomma. Avevamo tante di quelle versioni di Bella Ciao che saremmo potuti andare avanti anche altre ore, insomma, diciamolo. Madonna, dopo un po' ho ringraziato che non le potessi sentire in diretta, perché davvero c'erano delle robe assurde. Ancora non ho riascoltato la puntata, prima o poi la farò, ma mi hanno detto che dopo un po' non ce la facevano più tutte le versioni, quelle, soprattutto quella più tamarre, proprio. C'era della roba a trovato pizzi da non so dove, che vabbè, è sempre bella ciao, però. Cioè, tipo la versione latinoamericana, death metal. Guarda, ancora, ma elettroniche, metal, sì, c'era quasi tutto, mancava soltanto quella trap, probabilmente. No, c'era pure quelle, certo. No, a un certo punto ho rimosso, perché va bene tutto, però. Ragazzi, dicevo, tornando un pochino, cercando di dare un topic a questa puntata, vediamo chi si vuole, come dire, districare tra i meandri della quella che teoricamente si chiama fase 2, ma che in realtà è una specie di fase 1 bis, perché alla fine, anche se oggi stanno cominciando a metterci un po' di pezze, ieri sera ha parlato Conte, come al solito, in questo anche un pochino, se non fosse che prima di lui c'è stato un certo Renzi che, in quanto ad egocentrismo, lo batteva, diciamo, alla stragrande, l'avrei definito anche comunque un momento un pelino troppo, come dire, vanesio quello di Conte, perché quando parte per le sue campagne di racconto, no, per le sue dirette pseudo istituzionali, alla fine si fa un po' prendere la mano, però diciamo, ecco, che visto che abbiamo avuto di peggio ce lo facciamo andare bene. Però sostanzialmente ieri sembrava avesse praticamente, come dire, fatto il lavoro di Maria Calzetta, per chissà cosa significa, cioè alla fine ha fatto e ha disfatto, non c'era niente di significativo in questo nuovo in questa nuova prospettiva dal 4 maggio, se non ovviamente per le attività produttive, quindi sostanzialmente per le fabbriche. Pareva non si potesse avere qualche spiraglio di vita normale, se non per la possibilità di come dire, rivedere i propri cari più vicini, quindi i genitori, i fratelli e le sorelle, con anche una mobilitazione dei vescovi che trovano assolutamente inconcepibile che venga meno la libertà di culto, come se poi, questo lo dico io, la libertà di culto venisse prima di tante altre libertà, però poi ognuno è libero di scegliere. Oggi tant'è che insomma in qualche modo una pezza con la CEI ce l'hanno dovuta mettere, ce la staranno senz'altro mettendo, e già che c'erano Conte avrebbe, o il governo, non so chi per loro, magari adesso mi aiutate, avrebbe detto che tra i congiunti ci sono anche i fidanzati. Però chiaramente restiamo nell'ambito della stessa regione. Come stanno le cose? C'è qualche miglioramento della situazione? Un pochino, sì. Diciamo che hanno allargato il raggio d'azione. Cioè, in pratica, se prima il problema era lo spostamento all'interno del proprio comune, adesso è diventato all'interno della tua regione. Il problema è che, a quanto pare, qualunque spostamento tu faccia ti dovrai comunque autocertificare. Comunque, da quello che avevo capito io, le riunioni dei congiunti si possono fare tranquillamente fino a 15 persone. L'importante è che uno sia morto. Certo, quel tipo di riunione sì. Assolutamente sì. Bisogna però strategicamente scegliere chi è che può morire di volta in volta. Esatto. Ecco, se proprio. Però per esempio, è vero. Per esempio, ecco, ci sono state delle precisazioni, puoi andare a trovare i parenti prossimi, poi la specifica sarebbe che dovresti comunque mantenere la distanza e tenere la mascherina. Io vorrei capire chi è che poi una volta che entra in casa del parente resta in mascherina, però vabbè, al di là di quello, il discorso... Si può andare a correre, ma non in gruppo, quindi da soli. Si può ovviamente andare alle celebrazioni funebri, e questo lo capisco, insomma, non si possono chiudere i conti con un momento amaro senza questa liturgia della celebrazione del funerale per molti, quindi per carità, io lo accetto e lo capisco. Sono molto meno favorevole al discorso della messa, perché sarà il primo luogo pericoloso per, diciamo, proprio per antonomasia, dove nessuno farà i dovuti controlli, perché quasi si sentono, come dire, protetti da un anone divino che non ci ha protetto finora. Non vedo perché dovrebbe cambiare idea, però insomma vabbè, cerchiamo di capirlo. Intanto sono anche usciti i dati della giornata, li leggeva Simone Pizzi in chat. Tra l'altro Simone, quando vuole, è libero di intervenire. Diceva per la protezione civile 333 morti in 24 ore, e meno di 2000 persone in terapia intensiva, e in calo ancora i positivi, quindi ancora insomma siamo nel trend di migliorare lentamente. Direi. Per ora non si è verificato il boom che era previsto a 15 giorni dopo Pasquetta, quindi diciamo che... Cioè diciamo il, che... il boom negativo, nel senso col rischio del... Sì, okay. sì, perché visto che della gente si dice, senza, o meglio, si sa ma non si dice, che della gente comunque ha fatto un pochino i cazzi suoi a Pasquetta, ma no. Beh, magari rientra nelle normali statistiche. Sì, c'è anche da dire che non voglio esagerare dicendo che saremmo già dovuti arrivare a zero o quasi, perché magari era troppo, però è vero anche che in certe regioni il trend ancora non è che scende in maniera significativa. Purtroppo parliamo di Piemonte, Lombardia, sempre loro, ma lì la strada è ancora in salita. Ma lì lavorano, infatti, lì si lavora, anche la casa tu lavori, e anche il virus lo fai lavorare, lo fai girare, si gira. Non hanno tempo di pensare al Covid lì, giusto? Non hanno il tempo di pensare a stare bene, cioè, è così, nel nord si lavora. Il problema è che non è come da noi. Sì, ma c'era la voce, ho letto qualcosa di sfuggita, l'ho aperto anche l'articolo, non solo il titolo, che in Veneto Zaia voleva dire sti cazzi di queste nuove disposizioni, apriamo, facciamo un pochino i cazzi nostri. Cioè, non, ma non Zaia è bipolare dall'inizio, ma boh, Zaia, cioè, addirittura per G. Fontana, vabbè, lasciamo aperto. Ma Zaia è proprio quello per definizione, che prima fa una cosa, poi se la prende con Roma se quella cosa che ha voluto fare lui gli va male. L'ha fatto almeno 3-4 volte da inizio crisi. Poi si era un attimo calmato perché i numeri erano diventati talmente impietosi che anche aprire bocca era assolutamente inopportuno. E quindi, però, quando la situazione ha cominciato a stabilizzarsi, ha ricominciato a essere Zaia, un po' come Fontana, non ha mai smesso di essere Fontana. Un po' trampiano. Un po' come De Luca non ha mai smesso di essere De Luca. Infatti adesso cercheremo di capire, perché io ho questa, come dire, voi sapete che ho questo, come dire, interesse di parte nel capire quando sarà possibile varcare i confini della regione, perché la mia ragazza è in Campania, quindi dovrei passare sul cadavere di De Luca per vederla, e potrebbe essere un rischio che diciamo nemmeno che il ballo è più probabile proprio. Che accada il contrario, però sì, molto più probabile. Sì, ma diciamo sicuro. Ma io da una parte sarei anche contento, perché insomma se viene lei qui e ci sono tutta una serie di aggi che non ci sono al contrario, quindi insomma però lasciamo perdere. Qualcuno deve muoversi. Sì, comunque qualcosa bisogna fare. Nel frattempo, leggendo in chat, per esempio Rizzard dice: "Beh, che cazzo, potevano fare un emendamento per separarsi dai congiunti". Ma vedrai che qualche cosa succederà, proprio da un punto di vista secondo me normativo ci sarà. Non voglio assolutamente essere, come dire, il gufo del malaugurio, poi chiedo anche la sensazione di lobby, l'abbiamo detto più volte, però secondo me qualche, come dire, un'impennata delle separazioni potrebbe esserci come side effect di questi mesi. Che dici, lobby? Sia l'uno sia l'altro. La cosa... Pronto? Pronto? Studio medico? Sì, studio medico. Prego, prego. Io ho bisogno della pasticca, ma quando posso venire a studio che devo fare la pasticca? Sì, no, guardi, ha sbagliato. No, dai, ha sbagliato, non deve venire qui allo studio, ma deve andare a quello dopo. Che è quello dopo? Lei venga verso lo studio, non si ferma e va a quello dopo. Avevo voluto vedere mio figlio, lui che mi accompagna, che dove deve venire la pasticca? Dottore, basta la dottoressa, ma fa cura, capito? Guardi, la dottoressa non può venire perché in questo momento è morta. Però provi a chiamare domani. Domani cambia dottoressa. Signor malato? Ma ieri porta anche il malato. Vabbè, è morto, ma niente, vabbè, ma infatti si sentiva, gli è rimasto uno shampoo, insomma. Allora, ma chi è vivo? Allora, quando, sì, ragazzi, a quanto pare in vacanza addirittura, non solo in vivo. Ma hanno chiesto a Razzi, dobbiamo chiedere a Razzi, hanno chiesto a Razzi e detto che sì, visto che sono amiconi anche loro, quindi. Ma secondo me sapete chi è uno che potrebbe saperla veramente giusta? Dennis Rodman. Penso che ogni tanto va a trovarlo, sì. Si fa i selfie. Sì, no, ma loro sono proprio amici, nel senso che, voglio dire, non c'è un secondo fine politico per farsi pubblicità. Si frequentano davvero, anche perché credo che Kim fosse comunque appassionatissimo di basket, se non ricordo male. Io non lo so, perché il contatto più profondo che ho avuto con la Corea del Nord è The Interview con Seth Rogen e James Franco, quindi potrei avere una visione molto distorta in questo momento. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. No, non so perché mi ricordavo che The Interview avesse a che fare con l'Iran, ma no, evidentemente mi confondo. Tra l'altro è stato la causa di un hackeraggio ai danni della Sony, perché poi la Corea del Nord, diciamo, non prese benissimo la rappresentazione di Kim Jong-un fatta da... All'interno. Ma in effetti poi quel film in qualche modo è sparito dalla storia, nel senso che... No, parlate per voi, io ho due copie, me le tengo strette. Allora poi ne parliamo, perché io non ho avuto modo di vederlo, quindi se ne hai una digitale ti vengo a trovare e la guardiamo insieme. Sì, no, faccio come Simone, che gli spedisco le VHS e lui poi me le rimanda indietro. Facciamo quello che era Netflix all'origine. Esattamente. Okay. Comunque, ragazzi, visto che abbiamo toccato l'argomento, non so per quale, guardate le coincidenze, ce l'ho davanti in questo momento. C'è un libro scritto da un autore italiano che si chiama La sindrome di Megumi, o Megumi, credo che sia il titolo, della seconda edizione, e parla dello spionaggio della Nord Corea in Giappone e negli altri paesi del mondo. Io non so se la seconda edizione c'è ancora qualche copia disponibile su Amazon, però se vi capita, se avete tipo 12 euro che vi avanzano, prendetevelo, perché, come dire, un filo inquietante ma anche interessante da leggere. Cioè, sostanzialmente la Corea del Nord rapisce ragazzini in giro per l'Asia, però già, per esempio, padroni della lingua giapponese, già con una conoscenza ampia del contesto sociale di una nazione, e li rieduca come spie e poi li rimanda. È un approccio abbastanza unico come al mondo dello spionaggio, e pare che gli sia riuscito diverse volte. Ma... Il libro parte da questa ragazza che si chiama Megumi, che poi è stata, tra virgolette, recuperata, e poi approfondisce l'argomento con altri esempi. Praticamente ha preso ispirazione da Metal Gear Solid 3. Sì, bravo. Visto che è vero. Era una spia cinese in tutte, che era stata eccetera. Vabbè, cioè, ci sono là, ogni personaggio di Metal Gear fa almeno il triplo gioco. Triplo, quadruplo gioco. Se prendete le guide, quando ci sono le schede dei personaggi, tu un po' ti perdi. Cioè quella di Ocelot. Mamma mia. che chi è? No, io ci ho rinunciato, io ci gioco col presupposto dell'ignoranza, e vado, perché sennò è un casino. mi sono fermato alle ultime cose che mi ricordavo di Sosolt, che era una mano, ma a parte questo non ho grossi ricordi, o forse era il contrario, o era Liquid Snake che era una mano di Sosolt, non mi ricordo. Sì, che ho fatto, vabbè, io il quarto poi, ma anche nel quinto poi viene data tutta una parte di spiegazione che mancava, cioè alla fine torna tutto, però l'ha costruita in una maniera così complessa che ti viene un po' il mal di testa. Vabbè, parentesi chiusa. Comunque, avete letto la notizia, scusa, della, a New York oltre 100 persone hanno assunto disinfettanti dopo le parole di Trump? Sì. Infatti, comunque, allora, pare, Trump 100 detto... lettori in meno per Trump, cioè, va bene, cioè, sì, ma quello va bene. Ma comunque pare che non abbia detto esattamente, cioè lui l'aveva menata tipo ipotesi, no, non fatelo, però la gente tende a prenderlo sul serio. No, vabbè, in realtà qual è il problema, cioè, secondo me? Lui l'ha messa quasi sul verosimile, quasi facendo una sorta di domanda retorica ai consulenti che erano lì con lui in conferenza stampa. Ovviamente non ha dato modo di replicare, anche perché che fai? Tu che stai lì con Trump, ti alzi e dici no presidente, hai detto una stronzata, quindi la cosa comunque è passata per verosimile, il tono che ha usato non era quello che poi lui ha cercato di giustificare come sarcastico, assolutamente, il problema è stato proprio questo. Infatti c'era la dottoressa dietro che si stava ampiamente suicidando mentre... Assumendo parecchina via andovena. Sì. Secondo me ha cercato di ingoiare una pasticca di cianuro come le spie sovietiche di una volta. Secondo me ce l'aveva già nel molare. Lo staffa di Trump, secondo me ce l'ha nel molare, perché tanto se non te finisce lui ti abbatti da solo dalla disperazione. Mo' il momento in cui, cioè, avete visto, no? Il tira e molla con Anthony Fauci, mi piace dirlo all'italiana, sì. Fauci è bellissimo, che fondamentalmente dura da settimane, ma insomma prima o poi lo defenestra. Comunque, probabilmente non l'ha fatto Fauci, perché... Comunque lo chiamano Fauci, non è che lo chiamano Fauci. Fauci. Lo pronunciano anche loro Fauci. Sì. No, perché di solito la caricatura che gli ha fatto Brad Pitt dice proprio Fauci. Tra l'altro bellissima, ragazzi, complimenti a Brad Pitt che ha fatto questo sketch in cui praticamente ha, come dire, fatto la parodia, ma a fin di benissimo di Anthony Fauci, in cui ha ribadito, insomma, il succo del messaggio era: oh, non fate stronzate, non date retta a chi proprio non capisce di cosa sta parlando e cercate di dare ascolto ai professionisti. Al volo saluto Leo Vargion e Girasole che ci hanno raggiunto proprio adesso in chat. Ciao ragazzi. Comunque è stato meraviglioso nella spiegazione di relativamente presto, cioè un anno e mezzo relativamente alla durata della vita sul pianeta Terra nella sua totalità effettivamente non è molto, però se dite a un amico ti chiamo tra poco e sparisci per un anno e mezzo è probabile che sentite un amico ci vediamo relativamente presto, lo vedete fra un anno e mezzo, il vostro amico avrà ragione di essere relativamente cazzato. Però posso dire che a me succede spesso di lasciarmi con degli amici e dire ci sentiamo quanto prima e poi passano davvero degli anni, cioè le relazioni sociali relativamente quanto presto. Prima, sì, quanto prima nel vostro span di vita, nel senso in tutto quello che siete riusciti a vedervi è stato quanto prima, non siete riusciti prima, quindi logicamente regge, diciamo, più dal punto di vista di interpretazione così paraverbale il fatto che si indichi altro, ma dal punto di vista linguistico non fa una piega, eh? Sì, no, vabbè, ma era quasi da discutere per il come dire, proprio per al di là della semantica, proprio per, diciamo, quelli che sono i meccanismi sociali dell'essere umano che magari non vede una persona per un anno e mezzo, poi la rivede come nulla fosse, ecco, però insomma, siamo in una società che contempla anche questo. Comunque, secondo me, se Fauci lo guardate bene durante le varie conferenze stampa, c'ha l'aria di quello che sta riflettendo, del tipo, ma se stanotte entro in camera di questo e gli faccio un overdose di insulina, che tanto, cioè, a meno che non fanno un controllo specifico nell'autopsia non la trovano, ma se ne accorge nessuno, ma faccio tanto, guardatelo bene, cioè c'ha proprio l'aria di chi ci sta riflettendo di come potrebbe risolvere la situazione. C'ha l'aria un po' del serial killer Fauci, questa espressione assolutamente tranquilla, dico, dice sì ma ci penso io, voi non vi preoccupate. Sì, in effetti un pochino, sì, potrebbe essere il classico personaggio, come dire, bipolare che nasconde tutta un'altra identità la notte, un Dexter, va. Un Dexter, perfetto, è un medico. Comunque io immagino quando, tra licenziamenti e fine mandati, perché prima o poi il mandato finirà, tutti quelli che cesseranno di lavorare per relativamente a breve, insomma, tutti quelli che hanno lavorato per Trump, secondo me lo mettono sul curriculum, consigliere cazzo imperi di Trump, oppure lo mettono. Secondo me si trasferiscono in Russia, ma è un'opinione mia personalissima. In tutto o questo. In Nord Corea. O in Nord Corea anche. Ma in realtà, se puoi vantare di essere stato defenestrato, secondo me nel curriculum ce lo metti, perché è proprio una mozione d'onore, è una tacca sulla, come dire, sulla mimetica, non so se rendo il parallelo, sì, militare. Ma hai anche accettato di nessuno ti ha obbligato, non è che tu sei. Sì, so di Carlo, che c'è sta signorina. C'è star quale? Sostituto. Abbiamo qua, dottoressa, pronte le ricette, la prostata. Le ricette della prostata. Allora, sì, allora guardi, per le ricette della prostata, ovviamente deve procurarsi una prostata fresca e poi deve metterla a bagnomaria per almeno no, ma, se, ma che me, allora ho sbagliato il numero, che me sta piando in giro, io devo parlare con la dottoressa. Ecco, guardi, ecco, sono qui, mi dica. Ah, dottoressa, tanto che non la sento. Sta bene, tutto a po'. Sì, andiamo, mi dica, cos'ha la prostata? Ma ci posso venire a studio con mia moglie, che pure lei, che comunque sta bene. Ho capito! Ha detto, posso venire a studio, che fa visite. Certo. Signore, no. Il ditino in culo se lo può mettere anche da solo. Ha capito, vecchiaccio? Guarda, uno sotto, uno sopra, poi si sciacqua come una damigiana praticamente, perché è una comoda impugnatura. Esatto. Comunque qua ci ha raggiunto la vedetta. Vuole andare a fare la vedetta o andarci a dire fuori che succede? Vado e torno. Ok. Parte che la vedetta, che lei, ricordiamoci, è il simpatico nome con cui noi chiamiamo Alberto da Giussano, giusto? Giustamente. Scusate ragazzi, in tutto questo, però avete notato che il Covid-19 sembra avere degli effetti collaterali positivi su alcune persone? Avete visto che Boris Johnson è improvvisamente diventato sostenitore del mantenimento della distanza sociale, vuole tenere il lockdown un po' più a lungo perché si è reso conto che un secondo picco potrebbe essere un disastro? Guarda, io ti dico che per me l'effetto positivo su Johnson sarebbe stato un altro, però... Vabbè, quello d'accordo. Stiamo parlando ovviamente del taglio di capelli, no? Cioè speravamo che gli rasassero i capelli e gli anche il colore, anche ordinati. Il colore, dai, quel biondo. Comunque ieri mi inviava, però parlando di Inghilterra, ieri un'amica mi inviava una foto di un parco dicendo guarda questa è la quarantena a Londra, che c'era un fottio di gente al parco. Io gli ho detto metti tu la foto, per così per capire se era una fake news o no. Sì, e ho detto che cazzo ci faceva a mezz'avi, torna a casa. Mi mandi la foto con un fottio di gente in mezzo al parco, che cazzo ci facevo pure tu. Vabbè, comunque vedetta, cosa c'è fuori? Riporta. Allora, io sono tornata e ho notato un assembramento nel secondo condominio di fronte al nostro. Qua sparta la denuncia. Delazione, deliamo. Io chiamo le forze dell'ordine. Brava. Chiama le forze dell'ordine. A parte che verso mezzogiorno stravaccata, lei e l'altra con della musica tamarrissima fuori al terrazzo a prendere il sole, mi sono rifiutato di ok, volevo stare un pochino fuori, detto no, me ne torno dentro, non ce la posso fare. Vabbè. No, però mo definisci musica tamarrissima, che è? No, ragazzi, non è più vicino. Non è ripetibile, è troppo tamarra, era solo legata alla situazione, altrimenti non è da ascoltare. Aiutatemi ragazzi, devo stare qua una di due mesi qua. Aiutatemi. No, noi vogliamo il nome dell'interprete, il nome della canzone, il testo. Anche la data di deposito SIAE. Ciao SIAE, che ci ascolti soprattutto quando mettiamo i brani. Ciao SIAE. Ma perché non offre Spreaker? Ovvio, sì, offre. Sì. Ma sapete che Spreaker era nata con l'obiettivo, con la visione di trovare un accordo con SIAE per fornire l'accesso alle librerie di musica sotto diritto d'autore a tutti gli utenti che avrebbero fatto dei podcast in maniera diciamo comprensiva, soltanto che poi niente, SIAE voleva tanti di quei soldi che non si è potuto fare, quindi così, però questo tanto stranissimo. Per fare la SIAE che vuole un sacco di soldi, strano, vero? Infatti sì. Io mi ricordo quando la SIAE, allora faccio questo piccolo excursus, la mia vita diciamo da operatore nell'ambito dei servizi per VAS, per le telecomunicazioni, è passata anche dall'epoca del primissimo boom di loghi e suonerie per i primi cellulari. Le suonerie per i primi cellulari erano monofoniche fondamentalmente, c'era il bazzerino dei cellulari che poteva riprodurre delle note, diciamo uno spettro di ottave che era poco, il SID, poco sopra il SID di un Commodore 64, insomma non è che ci potessi fare polifonia. Eppure la SIAE decise che, siccome era musica ed erano pezzetti di brani depositati, volevano tanti soldi pure per quello. E nessuno gli disse di no. Però vabbè, queste sono perché la SIAE difende i poveri autori, lo fa per loro. La SIAE fa in modo che i poveri restino poveri, fondamentalmente. Sì, c'è un meccanismo di ridistribuzione dei diritti d'autore che non sono mai riuscito a capire, cioè, perché pare che non sia proporzionale per esempio al numero di volte che un tuo pezzo è stato trasmesso, cioè, no, anche perché è troppo complicato misurarlo, sì. Fondamentalmente conta la tua importanza nella gerarchia, nel senso, se tu come artista sei considerato in una certa fascia, prendi delle determinate, come dire, determinate revenue, determinati diritti d'autore, a prescindere che i tuoi brani vengano effettivamente riprodotti, ecco, almeno all'epoca la sapevo così. Poi sì, no, era una roba del genere. Poi, ogni volta che si parla di fasce di artisti mi viene in mente Boris, gli artisti di prima fascia come i Frizzi. Mamma, buon'anima. Tra l'altro l'altro giorno che stavo vedendo Toy Story 4, effettivamente non ci avevo fatto caso all'inizio che... Ah, giusto, cioè, perché non c'è il doppiaggio di Frizzi. Non c'era Woody. Mia figlia l'ha notato, mettiamola così. Ma è diverso Woody, Si è operato alle tonsille. Esatto. No, invece ragazzi, prima abbiamo parlato di videogiochi, prendiamoci questo brevissimo excursus perché... Ragazzi, scusate, scappo a lavoro, buon lavoro a tutti, ciao ciao. Buon lavoro, interrompi così Walter, così sul pezzo, perché che maleducato. Esatto. No, no, è giustificatissimo. Dicevo, approfittando anche della presenza in chat anche di Shuren che ci sta ascoltando, raccontiamo questo aneddoto perché praticamente un'oretta fa circa sortisce dal nulla sul nostro canale Programmi Videoludici di Runtime, quello pubblico dove ci sono molti di voi, questo bellissimo filmato che finalmente presenta il form factor, quindi l'estetica della PlayStation 5. Noi, presi in un atto di libidine videoludica, abbiamo visto questa console, anche se non rendering, che ovviamente ben si sposava nel design con il pad ufficiale nuovo, che sembrava veramente uscita un po' da un film di fantascienza, un po' da Detroit Becomes Human, ma poi abbiamo capito che era un fake. Purtroppo, aggiungerei, perché cioè, esteticamente era anche bella. Sì, era bella. Sembra un router gigante, però sì, non è male. Sì, forse sì, è un router gigante. Beh, guarda, considerando insomma che abbiamo visto portaombrelli giganti nel recente passato, piuttosto che router va anche bene. Io c'ho la Pro davanti in questo momento, devo dire che a me questa architettura scanalata che gli hanno dato, questo design a strati, a pancake, tra l'altro non allineato, non lo so, mi dice niente, l'ho sempre trovato anonimo. Poi insomma, sempre nero, mi farebbe piacere un cambio di direzione. Guarda, io già dico... c'ho un problema molto serio, non so se avete visto che Microsoft ha lanciato un'edizione limitata di Xbox One X a tema cyberpunk e la console... Ne abbiamo parlato in una puntata, ma credo ci fossi anche tu. Sì, c'ero. Ah, ok, ok. È uscito, cioè hanno fatto vedere proprio il video, non solo le foto. È veramente il deck di case di cyberpunk. Già sto cercando di non guardare il design da quello di Neuromancer, sì, sì. Punk. Vabbè. Sì, scusa, era buongiorno. È il genere, scusa, è il capostipite del genere. In realtà non è vero, però è il capostipite. No, è vero, però, sì. Mirror Shades, c'è stato prima, dopo c'è stato un miliardo di altre cose prima. Guardate, no, visto che siamo in argomento, cioè credo si possa trovare in ebook su Amazon, credo che stiano riproponendo un'antologia di... veniva chiamata, la Shake la chiamò antologia di fantascienza radicale, però ci sono tantissimi racconti cyberpunk meno conosciuti ma molto belli. È un'antologia che si chiama Strani Attuatori, se vi capita, non costa tantissimo, è molto bella. Io ce l'ho cartaceo subito, mi sa. Sì, io ce l'ho cartaceo, però dovrebbe esserci anche in digitale, l'ho vista girare qualche giorno fa. Purtroppo la Nord non ristamperà mai una raccolta di racconti molto bella che si chiamava Cyberpunk, anche perché la Nord adesso pubblica solo romanzi a sfondo sentimentale, erotico. Stavo dicendo Harmony, sì. Ok, quindi. Perché peccato, perché era veramente una grandissima raccolta. Pure quella ce l'ho su carta, c'era di tutto. C'era da Ian Banks con un racconto della serie della cultura, fino a un racconto uscito, credo, soltanto su una rivista di Gibson. Bello. Vabbè, ragazzi, scusate. No, ottimo, no, perché no, ci piace l'angolino della cultura, perché stiamo diventando polietici. No, moglie di Vannini. Per carità, come la musica e pannaggio di Alex, ci mancherebbe. Senza. Però insomma, facciamo vedere che abbiamo tutti una cultura media e una fantasia, come dire, piuttosto vivace qui in Runtime, perché insomma ci diamo da fare. Ragazzi, volevo prendere un attimino di tempo, quindi scusatemi se mi approprio del microfono. Volevo fare questa cosa, e sostanzialmente a metà puntata, che secondo me è il momento migliore, perché come avete visto la settimana scorsa con Paiata Funk e con Bangla C'è Tutto, stiamo cercando di sponsorizzare un po' di artisti, di giovani artisti che vogliano in qualche modo farsi un po' notare. E lo stiamo facendo come? Passando dei brani che in alcuni casi, come questo che vi sto per proporre, sono inediti. Io vi faccio ascoltare un brano di pop rock elettronico di un gruppo tutto al femminile, si chiamano She's. Il brano che vi sto per lanciare si chiama Hush 2. Feel awfully tonight. No words to describe the feelings I'm in. Not gonna meteorize. Not gonna smile through the rain. Lonely in their eyes. Can see what's near. They pull me under where I can breathe. Where I'm drowning now. And I'm drowning now. I'm just swimming this to pass. It shall. Ragazzi, chiedo scusa alle autrici di questo brano perché non si chiama Hush 2 ma si chiama soltanto Hush. Purtroppo ho letto il nome del file, mea culpa, chiedo scusa alle She's. Bene, detto questo, torniamo paciosi e vogliosi di farvi, di intrattenervi ancora un po', stavamo parlando nel frattempo, dissertavamo di letteratura in qualche modo. E tutto schifo. Che schifo. E tutto questo per dire, insomma, che ricordatevi che stiamo lanciando Runtime, sta lanciando il nuovo format, gli scimmioni non leggono Nietzsche. E tra l'altro Rizzard prima domandava in chat: ma Nietzsche che dice? E questo, come dire, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo succedono cose, si sentono cose. Sì, questa è una verifica escopost. Volevo un attimo sapere chi è responsabile qua dentro, per favore. Console. Sì, sono io. Io dicevo che era Simone Pizzi in realtà, però va bene, sì, console. Chi è di voi Simone Pizzi? Sono io Simone Pizzi. No, sono io Simone Pizzi. No, sono io Simone allora... Pizzi. Non fate le persone simpatiche, madre, perché io sono Sparta, Simone Pizzi. Signori, io vorrei un attimo l'escopos, io non so se voi sapete chi siamo noi, no? Siamo l'organo per la verifica di illeciti sulle trasmissioni radiofrequenza e anche in digitale, quindi insomma tramite Spreaker noi abbiamo ricevuto una segnalazione molto specifica, si dice che voi trasmettete dei brani copyright, insomma dobbiamo fare una verifica. Non ho mai sentito parlare di copyright nel nome della band. No, guardi, c'è stato un errore, noi trasmettiamo le musiche in copyrighti. No, voi non so se avete capito la gravità della situazione, noi abbiamo una denuncia su di voi, quindi stiamo facendo semplicemente una verifica e di conseguenza anche una notifica alle vostre persone, insomma chi è? Ditemi i vostri nomi che state facendo. Simone Pizzi, io sono Simone Pizzi. Siamo tutti Simone Pizzi. Anche mia madre è Simone Pizzi. Va bene. Ma scusi, posso fare una domanda? Perché secondo me c'è adesso un inghippo, l'escopost non è il buon costume? No. Ma veramente, va bene, adesso va bene, allora vi arriveranno le notifiche direttamente a casa, arrivederci. Su Telegram, grazie. A risentirla. Anche qualche mascherina, grazie. Oh, tra l'altro ci ha raggiunto in chat anche Michela, che salutiamo, che giustamente ci ha corretto per l'erroraccio sul nome della band che abbiamo appena ascoltato. E mia colpa mia. Volevo dire, nel frattempo succedono cose anche in quel della Puglia. Oggi Bari è salita agli onori della cronaca, Carmine, per due motivi divertenti. Uno che riguarda Telegram e l'altro che riguarda ancora una volta il sindaco. Allora, del fatto di Telegram io mi sarei aspettato l'intervento dell'ormai famigerata procura di Trani. Poi quando sentite una puttanata in tema giuridico, 9 volte su 10 è partita da Trani, cioè tipo le denunce contro le agenzie di rating, queste cose assolutamente fantasiose che mettono in piedi alcune associazioni di consumatori. Il famoso triangolo della morte Trani-Andrea Barletta, ricordiamo che sì. Come dice, concepisce queste cose. Sì, esattamente. Noi abbiamo, diciamo, delle persone con una fantasia giuridica notevole. Questa volta però non viene dalla procura di Trani, viene dalla procura di Bari, dopo pare nata motu proprio dopo un servizio di Repubblica, questo assalto a Telegram. In pratica, cioè la procura di Bari che sta cercando di ottenere la collaborazione di Telegram per chiudere alcuni canali, visto che autonomamente ovviamente non lo può fare, non ricevendo però ancora il supporto di Telegram in queste cose, che secondo me avranno mandato un'email a quelli di Telegram, manco se la so letta. Stanno chiedendo aiuto agli operatori per oscurare solo quei canali, cosa che per l'operatore è assolutamente impossibile, o in subordine di oscurare completamente Telegram. Certo. Come no? Funziona proprio così. Funziona proprio così. E questo, se nel caso dovesse servire, serve ancora una volta a rimarcare la distanza che esiste tra la tecnologia e la giurisprudenza. Sì, tra la comprensione del mezzo e la legge. Sì, assolutamente. Sì. Guarda, possiamo scalare fino a chiudere tutto internet se vogliamo, perché internet ci sono contenuti illeciti in qualunque forma, sotto qualunque natura, quindi l'unico modo per evitare è chiudere tutto, insomma, mi sembra giusto. No, ma non so se vi ricordate la famosa puntata di Archeologia Videoludica sulla pirateria in Italia. Mia moglie, che è specializzata, quando si è laureata si è specializzata in diritto d'autore, mi ha fatto leggere la sentenza in cui veniva scritto che per una questione legata a una copia illegale di un programma, che per l'autore della sentenza un programma elettronico era l'opera di sfaccendati sprovvisti di un lavoro degno di nota, e per questo non gli si riconosceva tutela giuridica. come dire, in punta di diritto dello statuto albertino praticamente. Sì, sì, assolutamente. E quindi ora abbiamo questa fantastica iniziativa che secondo me finisce allegramente a buco nell'acqua. Anche perché io ricordare... se ci pensate bene, tolti pochissimi casi enormi dietro cui magari c'era un giro di soldi, come potevano essere alcuni siti legati alle carte piratate di Sky, allo streaming di eventi sportivi a pagamento. Se pensate, persino TNT Forum è ancora aperto. C'è stato un periodo in cui è stato chiuso per precauzione, ma hanno riaperto allegramente. Quindi, sicuro, ultimamente mi è aperto, forse fidati. Ma non è questa la sede per parlarne, direi. No, è un'informazione di servizio. Assolutamente, sì, assolutamente collaterale e circostanziale. La seconda bellissima notizia che viene da Bari è che De Caro strikes back. In pratica il sindaco del capoluogo di regione, che insomma, si è già distinto più volte per queste attività, questi giorni di lockdown ha deciso di mettere il mantello e la maschera e fare lui le ronde cittadine a seguito seguito da assistenti che lo riprendono. Al grido di è che solo la Raggi, ricordiamolo. Esatto. La Raggi non so se ancora si è. La Raggi andava a fare bubusette a quelli che buttavano la spazzatura nel cesto dell'indifferenziata, mi pare. Invece De Caro si diverte ad andare in giro notte e giorno, perché insomma, si divide in attività serali e attività mattutine. In particolare zona lungomare, dove va detto in effetti qualche barese di troppo sta circolando, è ripreso dalle telecamere dei suoi assistenti, fa dei cazziatori in formato famiglia ai malcapitati che incontra. Non sarà ancora a livello di De Luca, perché ovviamente i tempi comici e la preparazione teatrale gli mancano, però sostituisce tutto questo con una verve andando sul campo. Andando sul campo direttamente, ma anche De Luca, vorrei dire che c'è il famoso video di lui che fa fermare la macchina, scende, fa il cazziatore a uno, risale sulla macchina e va via. Però lì non abbiamo sentito che gli ha detto. De Caro invece si fa riprendere con l'audio impostato bene, quindi gli insulti che ha riferito sono facilmente discernibili all'interno del discorso. La cosa divertente non è tanto lui, quanto le reazioni di alcuni baresi che proprio non capiscono perché il sindaco li stia cazziando. Vabbè. Ma scusa, giustamente il barese medio, posso spezzare una lancia, mangia frutti di mare crudi tutto l'anno, ma che vuoi che gli faccia il coronavirus? Sì, questo è vero. Difatti c'è la famosa signora che ha detto: io mi sono mangiata le cozze durante il colera, figurati se mi preoccupo. Ecco. Allora, anche... sì. È anche vero che siamo stati particolarmente fortunati. Scusate, sto seguendo dei gesti scaramantici di varia natura. Si chiamano riti apotropaici. Esatto, abbiamo un numero di contagiati non altissimo, non moltissimi casi gravi, e le rianimazioni che respirano, almeno quelle dove ho qualche contatto. Ma io infatti non riesco più a capire, a farmi un'idea razionale, se sono state particolarmente sfortunate Lombardia, Veneto e Piemonte, o se in realtà sono state fortunate tutto il resto delle regioni d'Italia. Mi viene da pensare più il contrario, però, perché visti e considerati quelli che potevano essere degli scenari presupposti, no? Visto che comunque sia, ora al di là dei luoghi comuni, la sanità nel centro-sud è mediamente meno efficiente che al nord, al di là poi di certe speculazioni che abbiamo ben visto. Però diciamo che in regioni dove se fosse scoppiato il bubbone sarebbe stata una catastrofe, il sistema è stato in grado di anticipare la catastrofe e di contenerla. Al nord c'è stato uno tsunami che nessuno ha potuto gestire. Comincio a cercare di vedere ad interpretare questi segni al contrario. Allora, io non so che dirti, perché onestamente io, per esperienze familiari, tutta sta iperpotenza della sanità lombarda, quella pubblica perlomeno, in realtà, diciamo, per motivi, per dolori dolorosi motivi familiari, ci ho avuto a che fare, non ce l'ho mai vista tanto. Ci sono ospedali a Bari che stanno messi decisamente meglio di alcuni grandi ospedali della Lombardia. Io mi ricordo di essere andato a fare una donazione di midollo osseo policlinico a Milano e non aver trovato una situazione molto migliore di quella che avevo trovato per un evento analogo a Bari. La sanità lombarda ha tamponato con le strutture private, però con il downside che conosciamo tutti. Scusate, mio figlio ci teneva a salutare. No, ma siamo contenti che ci sia anche lui nel podcast. Insomma, lui adesso non lo sa, però. No, poi io lo registro. No, nel frattempo stavo leggendo un articolo che, diciamo, mi ha preso un po' alla sprovvista, perché poi alla fine è quello che dice anche con una certa semplicità e poi sacrosanto. Non so se conoscete Lega Nerd e se conoscete, diciamo, il suo, fondamentalmente il suo autore principale, il suo proprietario, che è Itomi, che dice in un articolo a firma, quindi Antonio Moro, che giustamente dice: siamo nella merda, parlando ovviamente di Covid, perché in quattro righe dice cose effettivamente assolutamente inoppugnabili. Non abbiamo un test efficace, non abbiamo una cura efficace, non abbiamo un vaccino. Quindi però, e diciamo, lui non lo relaziona direttamente alla fase 2 di cui stiamo parlando, però effettivamente la mia paura in questa pre-fase 2 è che tanta gente questo aspetto lo stia sottovalutando. Non ci stanno dando modo di uscire un pochino di più e di allentare una morsa asfissiante, perché vabbè, ci siano delle novità reali. Il 4 maggio, caro Sbano, ci sarà gente che uscirà la sera, andrà al pub, lo troverà chiuso e dirà: oh, che puttana, perché è chiuso? Gente che sarà lì davanti che si chiederà perché è chiuso, visto che è tutto finito, perché c'è gente che è convinta che fra una settimana la vita sarà normalissima. Certo. Ma a proposito di questo, Marco, sai, mi è venuto in mente proprio adesso questa cosa, mi riferisco in particolare a te perché gli altri non credo che abbiano questo know-how localissimo da cogliere, ma secondo te Maurizio è l'underground, che gli è successo? Non lo so, perché lo vedi ultimamente, l'hai visto? No, nel senso che fondamentalmente lui viveva scenario, background. L'underground è il pub storico del nostro paese, quello che c'è sempre stato, è anche un pub neanche particolarmente brillante, diciamo, ricavato in un seminterrato, cantina di un palazzo, proprio delle grotte, sì, con tutta una serie di problematiche. Però uno fondamentalmente ci ha passato la tarda adolescenza e i primi anni dell'età adulta, perché se volevi una birra a Monterotondo devi andare all'underground, insomma, non è che c'hai molto di più. E lui fondamentalmente c'aveva questo chiamiamolo pregio, del fatto che stava aperto sempre, tutti i giorni, tutto l'anno, tutta la notte, quindi senza soluzione di continuità. Ed aveva anche, secondo noi, perlomeno secondo me, un accordo di collaborazione stretto con il pronto soccorso, perché praticamente era quasi di rimpetto, quindi secondo me il pronto soccorso gli forniva la carne, cioè avevo questa sensazione alle volte. Però una volta che gli hai tolto la forma, l'unica... Anche il contrario, anche lui forniva carne al pronto soccorso. Sì, lui forniva clienti al pronto soccorso, diciamo, effettivamente, come etilici, botte, cose così, che poi non era esattamente un luogo chic e d'élite, ecco. Però insomma, adesso che delitti. La sua vita era assolutamente pub centrica, io non lo so adesso come è andata a fine, poi non ci vado da qualche anno, quindi non lo so, però insomma, quando Marco ha citato il pub mi è venuto in mente questo. Che momento triste. Per me si è chiuso dentro. Sì, non so neanche se avesse una casa, cioè in certi momenti riflettevo sul fatto che non avesse bisogno di avere una casa, perché come dire, stai lì tutto il giorno, al pub tutto il giorno, e tra l'altro ci ha avuto anche un figlio, quindi c'è, cioè, una storia assurda, vabbè. Comunque, mi domanda Simone Pizzi in chat, nel frattempo è apparso Simone Pizzi, è sparito Runtime, è apparso Simone Pizzi e mi chiede: Walter, stai bene? Non ho capito a che si riferisce. Probabilmente ha sentito che ti manca il pub e sei preoccupato. Ah, ok, boh, può darsi a quello. Nel frattempo parlavano di Lombardia, giustamente in chat non avevo visto, e chiaramente come fanno notare sia Rizzard che poi anche, diciamo, Simone, che riporta le parole del nostro Sant'Agostino, fondamentalmente in Lombardia è stata una strage. Scusate, avete sentito? No, non ci avete fatto caso, ma il mio Google Mini all'improvviso ha detto qualcosa è andato storto e ho paura. L'importante è che non sia la supposta che hai messo prima, però okay. No. Okay. Ce ne hai almeno due di supposte, sì. Perché una me la devo magna? Eh sì, ovviamente, tutto schifo. Due, tutto a coppie. Vabbè, basta. Mamma mia. No, sì, tutto a coppie, sì, però si presuppone che una delle due sia mangiabile, ma la supposta, no. Vabbè. Ti potrei raccontare di un paziente americano, di una paziente americana del cos'era? Vabbè, era dell'aviazione, la distanza a Gioia del Colle, dove c'è una base NATO, che si è fatta visitare per un problema, un studio privato da mio padre gli diede delle supposte, e questa fece capire che papà è convinto di aver capito male lui, perché non parla bene l'inglese, e sostiene che una l'avesse ingoiata prima che papà gli spiegasse come andavano utilizzate le supposte, perché pare che nei paesi anglosassoni non si usino molto le supposte. Ah no, beh, ce lo mettono in culo in modo un po' più soft, forse, boh. Sì, è questo. Vabbè, magari non lo so, in Italia forse la paura atavica per la serenga probabilmente ha portato, diciamo, alla moda della supposta, non lo so, però effettivamente lo trovo un farmaco una formulazione barbara, ecco, non un farmaco, una formulazione barbara la supposta, mettiamola così. La bassa insinuazione. Eh sì, esatto. vabbè. Chissà da cosa deriva il termine supposta. Perché si suppone che te la metti a... No. Può darsi. Come la chiamiamo? Ma come la chiamiamo? Supposta. Perché io però qui mi aspetterei che il nostro divulgatore scientifico facesse una verifica in tempo reale e ci dicesse... Sto controllando sul cellulare ora. Bravo. Perché le supposte... Google, perché le supposte... Sì. Io sono convinto che l'omino che legge tutte le ricerche che io faccio su Google ogni tanto si preoccupa. Che ricordiamoci, ogni persona ha un angelo custode Google. Esatto. Il cinese, Guangxiang. Perché seguo su Google e vediamo che c'è. Perché esistono le supposte? Può andare in piedi come ricerca suggerita. Mamma mia, vediamo, certo, dai, sei curioso di sapere i risultati. Vabbè, sono nate perché contenevano principi attivi atti a favorire l'evacuazione, in genere emolienti. Wikipedia, ragazzi. Sì. Sono adatti alla... Wikipedia dice una cosa fondamentale. Allora, forma farmaceutica semisolida a dose unica, e qui già ci avrei da obiettare, la cui forma, volume e consistenza sono adatti alla somministrazione rettale. Boh, dipende, ragazzi. Dipende. Cioè, sono alcune che sono mostri. Sì. Posso essere preparato con due cose vive, funzione, note, bibliografia, voci correlate. Puccio, mentre no, tutti origine... i documenti, a questo punto io volevo fare, visto che ci siamo, un excursus sui nomi di certi farmaci, perché me ne sono in mente due che mi fanno tanto ridere, non voglio fare pubblicità. Però io mi ricordo in una notte di delirio di insonnia, tant'è che credevo di aver visto, di essermelo quasi immaginato, ma poi nei giorni successivi la pubblicità la vidi anche di giorno e capii che non era un delirio della notte. Lanciarono questa supposta effervescente chiamata Evacu. Ah sì, ma cazzo esiste. Non hai mai sofferto di sti cazzi? Non è mio. No, io se c'è una cosa che proprio non c'è problema. Ma manco io. Fino però... a che non fanno le supposte pralinate, guarda. Le quelle per altri usi, secondo me esistono anche quelle, fidati. Esistono anche quelle sicuramente, ma sicuramente non per scopi terapeutici. Per scopi ludici. Invece, e qui mi rivolgo più specificamente al lobby, anche se poi diciamo l'uso, la categoria farmacologica non è attinente, però mi fa ridere tanto, spesso con Valentina ci ridiamo quando vediamo la pubblicità, perché c'è questo antistaminico che si chiama Fex Allegra. Ce l'ho anch'io. Ok, mi dispiace Marco. E la prima come dire, la prima assonanza che facciamo è Fex Allegra. La festa allegra, e lì partono tutta una serie di, come dire, di voli pindarici, di speculazioni su questo farmaco, dal punto di vista semantico. Ottimo, ci sta. E quindi io mi domando sempre: ma come li scelgono i nomi dei farmaci? Ecco, un po' come scelgono i nomi delle macchine, secondo me. Però vabbè. No, peggio, perché Levtus, Nodol. Bast, mal di gol, cioè questi nomi assurdi. Prostamol, ne vogliamo parlare? Prostamol, il di base. Che cazzo? Io ricordo ancora le risate quando è venuto fuori il Levitra, che io lo associavo alla levitazione. Visto quello a cui serve il Levitra, era adatto. Cos'è? È un surrogato del Viagra? Cos'è? Sì, è l'avversario del Viagra, come il Chalice. Ah, ok. Cioè, le tre molecole sono quelle del Viagra, quella del Chalice e quella del Levitra. E allora, giustamente, ci sono proprio molecole diverse, sì. Sono principi attivi diversi. Anche perché il sildenafil, mi pare si chiami. A te, a mamma, appunto. È un brevetto della Pfizer, quello del Viagra. E quindi anche gli altri due dovrebbero essere ancora sotto brevetto. Che poi secondo me, adesso che, soprattutto adesso che esiste la cultura del farmaco generico, che prima ovviamente non c'era, cercare di esprimersi come si fa anche in altre culture parlando della molecola piuttosto che del nome commerciale, secondo me è una cosa importante, perché ti permette di districarti e di poterti come dire, confrontare magari anche con un'esigenza di farmacia fuori dai confini del tuo paese. Perché è chiaro che se io vado in una farmacia fuori dall'Italia e chiedo una tachipirina, forse mi danno un pacco di assorbenti, non lo so. No, tachipirina mi sa che per esempio in Germania l'abbiamo trovato. Dicendo tachipirina? Dicendo tachipirina. Vabbè, forse perché il nome commerciale si assomiglia, però avessi detto paracetamolo, avrebbero capito tutti, insomma. In tedesco, però. Comunque c'è un elenco di farmaci che sono bellissimi. Vai Marco, dilettaci. Che non so, c'è il Sectral, il Diamox, il Dimelor, il Tyndall, poi c'è il caprolisin, il gastrofrenal. Questo, ragazzi, il gastrofrenal è bello. Ma secondo me le inventano nelle sessioni di D&D. Il Lenny Dollar. Questo cioè, te fa il Muscoril non c'è? Vediamo un po'. Fungizon, questo vabbè, immagino che sia. Inocor, Valpin, Antraderm, Elspar, Ismanal, Tenormin, Lipitor, Velvud. Oh mio Dio, stanno uscendo dei tentacoli dal cielo. Sì, ha chiamato Tulu, sì, me ne sono reso conto. Hai evocato l'Altissimo. Ma pensa il prepenne, voglio sapere che cosa serve il prepenne. Per i preliminari. Può essere cogentino. Credo sia un lubrificante vaginale, guarda. Surpanta Solatene, Bentelan Celestrilun Ecoval, Urecoline, Beptopicrerlon, Dulcolax Concor, Asmalene. Se scherzi, davvero c'era il sole e qua è venuto. Sono venute le nuvole, Marco. venute le nuvole, te lo giuro. Nel frattempo, ragazzi, ci hanno raggiunto Lullaby e Roberto Tomaiolo. Ciao ragazzi, sì, siete proprio sul filo del traguardo, insomma abbiamo ancora qualche minuto. Comunque è bello notare tutte le declinazioni che anche in chat di farmaci veri o presunti stanno facendo, insomma bravi ragazzi. Erectil, Rizzacaz, perché è solo questi però. Rizzacaz, sbizzarritevi. Rizzacaz che non sia nuovissimo. Io vorrei uomini della chat. Secondo voi il contramal a che serve? Contramal è un cabinato degli anni 80 della Taito, sono sicuro. No, secondo me serve per star bene. Contramal. Il Vagisil, sì, esiste il Vagisil, è anche da cui è stato il logo praticamente è stato palesemente proprio rubato da Italia Viva, che è identico. No, è il contrario. Ah sì, Italia Viva l'ha rubato, sì, esatto, sì, vabbè. Ci fu un trollaggio epico al lancio. Proprio è un plagio. Sì, però vi ricordate il nome scientifico di farmaci tipo il Gaviscon, che sembra un'arma di Goldrake? Inibitore della pompa protonica. La pompa protonica, è vero. Io li ho presi anche per un bel po' di tempo quelli là, ma ogni volta io pensavo tipo qualcosa Goldrake, inibitore della pompa protonica. Infatti quando l'hanno prescritto a me l'ho preso solo per quello. Beh, perché il protone è l'arma del robottone giapponese per definizione. Ma difatti io ho chiesto al medico, ma devo urlare il nome del farmaco prima di assumerlo perché abbia effetto? Io lo facevo così a prescindere, perché mi piaceva farlo. Comunque durante il discorso, cioè, durante l'elencazione di Marco, mi sono ricordato la magia del, sembrava la magia del fare di Excalibur. Ananna, Trakut, Vas, Betod, sono tutti nomi di farmaci e non lo sappiamo. Però ragazzi, permettetemi, se dobbiamo invocare il farmaco lo deve fare la voce di Romano Malaspina, se no non funziona. Ci vorrebbe una roba tipo Gasman legge il foglietto illustrativo di anche un De Luca. Anche un De Luca legge li meglio farmaci. Però De Luca legge gli effetti collaterali, secondo me. Morte. Secchezza delle fauci, ragazzi. Secchezza delle fauci, che è uno di quei effetti collaterali nei bugiardini che mi hanno sempre fatto più ridere e più paura allo stesso tempo. No? Secchezza delle fauci, ma non si poteva dire in un altro modo? questa cosa Lobby la sa sicuramente, che per legge le case farmaceutiche sono tenute a scrivere negli effetti collaterali tutti quelli che vengono segnalati, non quelli che poi magari sono effettivamente un effetto collaterale del farmaco, fino a quando non indagano. Quindi in alcuni farmaci trovate nel foglietto illustrativo tipo può causare annegamento. Le voglio pure io le medicine, quelle che avete detto voi. Lei non le ha prese, mi sa, non ha preso quelle giuste. Tutte. Lei non mi sta prendendo le goccine. Voglio quella protonica lì, la cosa protonica. Vuole l'inibitore della pompa? È sicuro? Protonica, sì. Perché ci sono dei pesanti effetti collaterali sulla pompa, appunto. La pompa protonica che è troppo, capito? Quindi bisogna l'inibitore. La pompa sodio potassio, vabbè, un'altra cosa quella. Vabbè, ma non mi prendete sul serio, io le medicine, Medicine. C'è della medicina molto buona che si assume per via nasale, proprio costa un pochino di solito. Al 4 maggio lei potrà procurarsela, si organizzi con delle persone, potrà procurarsela, ha degli effetti simpatici. Ma in realtà in modalità sport già adesso? Con delivery ce la portano direttamente sì, a casa. Ma ti pare che non hanno inventato una Colombia direttamente, arriva un drone. Qualcuno l'aveva immaginato. Comunque sì, già Sniff ci sarà, sì, insomma. Sì. Già Sniff. Sì. Oppure c'è un Pippo. Esatto. Vabbè, ma non diamo ispirazione al marketing di queste associazioni. Ma no, non credo. Famolo noi. Dai, comunque giustamente Leo Vargion parlando degli effetti presunti dei, diciamo collaterali dei farmaci, dice qua possiamo rischiamo di scoperchiare il vaso di Pandora, però giustamente dice per questo sui bugiardini del vaccino è riportato autismo. Sì, è vero, è uno dei motivi per cui la gente ci crede. Esatto, è vero, però ripeto, c'è scritto anche sempre sul vaccino, mi sa, non mi ricordo se era sul trivalente o su quello HPR, cioè c'è scritto può causare annegamento, ma spiegatemi come, cioè lo assumi e improvvisamente ti trovi in mezzo al mare senza un bagnino in vista, cioè come funziona? Comunque no, ragazzi, ci sono farmaci che sul bugiardino hanno anche riportato che può causare, in rari casi può causare la morte, eh? Sì, anche a voi ne stanno una cifra deve... Comunque sì, no, ci sono dei vaccini che se te lo fanno, cioè uno su un miliardo, non è che succede. Prendi la patata. No, ti ritrovi dentro l'oceano. L'oceano, un indiano però. Un oceano, adesso non si sa. Però poi è specificato che è quello indiano. Uno a miliardo, non su un miliardo, cioè non è una cosa che succede sempre. Però può succedere, è giusto metterlo su un bugiardino, giustamente. No, ma anche se ti trovi nell'esercito, nell'oceano indiano, non ti devi preoccupare. Perché, come sanno i sostenitori della Terra piatta, basta continuare ad andare in una direzione e per l'effetto Pac-Man ti trovi immediatamente dall'altra nel continente parte. Opposto. Quindi non vedo il motivo di tutta questa preoccupazione. Dall'altro hai citato una cosa che fra due settimane... ne vedrete delle belle. Ciao, arrivederci a tutti. Bella. Ciao. No, tra l'altro ragazzi, io adesso sono un po' preoccupato perché non ho capito se è una domanda trabocchetto, però Roberto Tomaiolo ci chiede che cos'è la preparazione H. Beato te che non lo sai. Sì, perché mo non lo sa. Mi stavo ricordando di un non posso dire il nome perché penso che possa anche ascoltare, l'ex direttore di una testata videoludica per cui ho lavorato da ragazzo in 20 anni, che è andato una volta al Tokyo Game Show. Questa povera persona soffre di emorroidi, beh adesso meno, si è operato, però insomma prima aveva questo problema, e in Giappone mentre stava al TGS ha avuto bisogno dell'equivalente giapponese della preparazione H, e ovviamente non si chiama preparazione H, c'è un altro nome, quindi è dovuto andare in farmacia. La preparazione Yakuza esatto. Ah, non Toradora? Si è spiegato credo a gesti, però il farmacista ha capito e gli ha dato l'equivalente giapponese della preparazione H, e questo farmaco aveva l'applicatore come la preparazione H e il foglietto illustrativo. Il foglietto illustrativo era in giapponese e in inglese, era bilingue, quindi lui l'ha aperto, l'ha letto in inglese e c'era scritto inserire l'applicatore nell'orifizio è testuale mantenere la calma. Vedi, vedi poi mi ha detto, Puccio, ti dico la verità, io fino allora ero ben agitato, ma dopo aver letto quella frase un pochino. Ma scusa, se era un farmaco per lui di uso comune, perché ha letto il bugiardino? Perché dice, perché non sapeva se era esattamente lo stesso principio attivo, e poi il, come posso dire, l'applicatore era diverso, quindi lui voleva vedere come lo devo usare e si è trovato questa bellissima frase davanti. Allora, diciamo, sono un po' agitato. Potrebbe essere che vale la tesi di Leo Vargion, che ci dice che H nella versione giapponese sta per preparazione Hiroshima. Potrebbe darsi. Oh mio Dio, questo è cattivissimo. Preparazione Arakiri anche. Anche. E invece, ragazzi, Roberto ci domanda, sempre Roberto Tomaiolo ci domanda, tornando a parlare un po' del fatto che tra le persone che si potranno tornare ad incontrare nella fase 2 del decreto ci sono, negli affetti stabili ci sono i fidanzati e le fidanzate, e parlando di affetti stabili, perché si è usato questo termine probabilmente anche per non discriminare, la domanda è: la misura di stabilità da cosa è stabilita? Dal numero di messaggini? Potrei dare delle risposte grette, ma non lo farò perché ci sono delle signore in chat, insomma. Intanto salutiamo anche Davide Gatti. Ciao Davide, ben trovato. Ciao Davide. Vabbè, ti sei perso una disamina su preparazione H, che dopo ascolta dalle indifterite, perché sì. No, no, non nominate ste cose, che poi Davide parte con tutte le sue diagnosi. Davide è ipocondriaco come me, no, spero. No, no, però ci tiene a esternare le sue diagnosi, le sue cose che ha avuto, bravo. E che ha. No, ragazzi, però chiedo per un amico, ma nella questione congiunti affetti stabili, le suocere sono riviste? Cioè, come funziona? Te tocca. No, in realtà la suocera è una affine. Allora, sai dov'è il trick? Per te la suocera è un affine, di conseguenza potrebbe anche non toccarti. Il problema è che contemporaneamente fatalità è anche la madre di tua moglie, quindi te tocca. Ah boh, c'aveva ragione il tizio che credo sotto il video di un sindaco di un comune della provincia di Bari scrisse: sindaco, dovete fare dei controlli più serrati, la suocera riesce ad arrivare a casa mia indisturbata. Sì sì, ma le suocere non solo non le fermi, ma avrei anche paura a tentare di fermare una suocera in berserk, insomma. Soprattutto la mia vita. Ragazzi, che bello, scusate. Vai. No, niente. No, dicevo, Davide Gatti sul gruppo Morti di Bestemmie Open ha pubblicato, anzi Morti di Bestemmie The Original One, ha pubblicato una foto in cui si vede il lettore del suo stereo dell'auto, non so se con, non so dire se Android Auto o Apple Car, in cui si vede la schermata in cui sta riproducendo il nostro bel podcast con anche la faccina di Caius Titus che ho usato nella copertina di oggi, molto molto carino, molto carino. Vabbè, a proposito, ma lascio passare a 38, l'ho provato poi. No, devo salire al piano di sopra a compilare il modulo, insomma. Ho il modulo di altro, cioè, certificazione X7, sì. Esatto. Dicevi, scusa? No, stavo ricordando che qualche settimana fa purtroppo è venuto a mancare un terzo. Sì, anche di quello purtroppo con un velo di tristezza abbiamo parlato. Io sono un amo visceralmente Asterix, malgrado lo ami quanto i francesi, quindi cioè, un po', no? Ricordiamo che Asterix esiste solo in francese. Porca puttana, non me lo ricordavo. Cioè, guardate, qualche giorno fa ho parlato con mia madre e ho detto: guarda, che quella figura di merda l'ho raccontata pure per radio. In questo momento c'è qualche centinaio di persone che sanno di tuoi biechi stratagemmi per costringermi a imparare il francese in tenera età. Che lingua di merda. Lei mi ha risposto: ma ti è servito? Le ho risposto: sì, una volta sola quando siamo andati a Euro Disney, mamma, poi mai più. No, cioè, ma in realtà, scusami, Carmine, qua c'è qualcosa che non torna. Perché se c'è un posto dove non ti serve conoscere una lingua straniera, sono i parchi Disney. Perché hanno il personale che parla tutte le lingue del mondo. Ma una volta ci ho avuto sfiga io, perché quelli che ho trovato io parlavano inglese, francese, italiano, nessuno. Siccome all'epoca masticavo, cioè avevo 15, no, 16 anni, parlavo italiano, ma essendo in Francia si rifiutavano. Oddio, quello è pure probabile, conoscendoli. Però devo dire, in effetti, cioè, a parte lì, io, cioè, ho rimorchiato a 16 anni a Parigi perché parlavo il francese, ma tolto quell'evento singolo della mia vita, non penso mi sia mai più servito. Guarda, io ho un ricordo traumatico di una vacanza con quattro, eravamo in quattro in tutto, quindi con tre amici a Parigi nel 2001, sì, poche settimane prima dell'11 settembre, tra l'altro, se non ricordo male, che praticamente, no, l'anno dopo, l'anno prima, 2000, in cui praticamente non sapevamo una parola di francese. Quando arrivammo stanchissimi, andammo da Roma a Parigi con il treno notturno, quindi col vagone letto eccetera, tra una cosa e un'altra arrivammo stremati davanti al nostro primo pasto dopo tipo 20 ore in un bistrò che avevamo trovato. Apriamo questi menù, non ci capivamo ma un cazzo, è dire poco. A un certo punto a un amico si accende la scintilla: regà, entrecotto per di bistecca, e tutti a mangiare la bistecca, che era l'unica cosa che avevamo riconosciuto. E vabbè, comunque, insomma, quei bei momenti non ce lo scorderemo mai, entrecotto per di bistecca. E questo è colto prima dell'avvento di Google Traduttore nelle nostre vite. Guarda, sì, ti posso dire che quando sono andato in vacanza il mio cellulare all'epoca, se non ricordo male, era un 7110. Sì, quasi, 2000, sì, 2000. Quindi, insomma, per dirti che siamo in epoca assolutamente pre-smartphone, pre-colombiana. Pre-colombiana, sì. Pre-colombiana. E vabbè. Fa fatica a ricordare che esiste un tempo prima di internet diffuso. Vero? E anzi, che noi lo conosciamo, gente, perché sì, visto che c'è della gente che non l'ha mai conosciuta e non lo concepisce così. Quando è stato? Vi ricordate quando è uscito il film di Capitan Marvel, che è ambientato negli anni 90? Sì, due anni fa, che sono stato un anno e mezzo fa. E io andai a vederlo con il mio ex vicino di casa, ecco, il figlio che aveva credo 18 anni, e a un certo punto ci ha guardato e ha fatto una domanda del tipo: ma perché non lo chiama col cellulare? E io e il padre ci siamo guardati, guardi, ma chi glielo spiega? Il figlio tuo, glielo dici tu, che all'epoca non c'erano, o che non erano perlomeno tanto diffusi. Scusate ragazzi, prima di tornare sull'argomento, perché mi interessa, volevo leggere questo messaggio di Lullaby che ci chiede: ma lo sapete come si dice in francese nelle bocche di Ercole c'è il mare? C'è la trappola, ragazzi. Non lo fate. Bouche de foule. Sì. C'è le mer, ragazzi, mare. È così, insomma. No, tra l'altro, cioè, lo scioglilingua in francese, la madre del sindaco è caduta in mare, perché tutte e tre queste cose si pronunciano con mer, quindi. Mer e tombé dans la mer. Le mer. E i calcoli della nonna di Ada, non lo so, ma insomma abbiamo già fatto troppo calcoli della grand-mère. Va bene, qui notiamo che l'Alaba ci sta facendo capire che adora il francese, insomma, ecco. Sì, la lingua di Proust. Sì, esatto. Invece ragazzi, volevo dire questo, parlando di questi riferimenti appunto a questi anni che noi abbiamo vissuto, ma che le nuove generazioni non sanno siano esistiti e quindi appunto non concepiscono un'era predigitale, mettiamola così. Se vi capita su YouTube, l'avevo già detto, cercate il canale Kids React, che è fichissimo. Ci sono questi ragazzini, diciamo, di età scolare, quindi diciamo elementari, quindi 6, 7, 8 anni, forse anche in alcuni casi anche meno, che vengono praticamente messi a contatto con oggetti che per noi erano di uso comune, ma che loro non possono neanche immaginare cosa potessero essere. Ma cose tipo il Walkman, il telefono con i tasti, diciamo, col filo, piuttosto che il floppy, la macchina fotografica non digitale, tutte queste cose così. Ed è bellissimo questo loro sorprendersi di queste cose, del meravigliarsi che la declinazione tecnologica di non più di 20, 25, massimo 30 anni fa potesse essere così lontana dalla loro concezione, perché non è possibile. Comunque, ci sia una macchina fotografica che non ti fa vedere subito lo scatto che fai, piuttosto che comunque. Stavo pensando sempre a questo bambino. Questo bambino che si dice: ma perché non usano il cellulare? La cosa brutta è che a questo bambino non è stato fatto mai vedere qualcosa che sia più vecchio di una quindicina d'anni. Ma il bambino che tu dici aveva 18 anni, diceva Lobby, diceva Carmine, non era proprio un ragazzino. Capisci? Cioè, questo in 18 anni non c'ha cultura cinematografica. Ne ho visti pochi, o magari non ce l'ha fatta. No, ma mi ricordo sì, però ragazzi, scusate, cioè, se io vedo un gran mofono non mi stupisco. Lo so, lui no, ha fatto questa osservazione, ci ha lasciato spiazzato. C'è da dire una roba. Proprio o forse per... pensava che negli anni 90 già c'erano i cellulari, magari. No, credo che la sua convinzione fosse quella, però noi gli abbiamo spiegato negli anni 90 chi ce l'aveva erano, cioè pesavano come un frigorifero e certamente non erano smartphone. Primi anni 90, sì. Anche solo in ambito cinematografico, mi ricordo già ai miei tempi, diciamo così, che c'erano dei, mi ricordo alle superiori, che tipo, mi ricordo come uscì fuori una professoressa dicendo che comunque i film prima degli anni 20-30 erano muti, ma c'era gente che proprio non concepiva il fatto che un film potesse essere muto. Per me era abbastanza normale, bene o male, già era in quella generazione in cui ci si avviava a non concepire alcune cose. Una volta, ancora un'altra volta, un altro mio amico che è stato anche mio coinquilino, ma quasi una decina d'anni fa, lui si rifiutava, diceva che i film bianco e nero non gli piacevano perché comunque quelli, cioè, lui vedeva, concepiva il cinema davvero sempre secondo una progressione tecnologica, per cui un film uscito nel 2010 era necessariamente migliore di uno uscito nel 2009 perché era più nuovo. Ma proprio e continua forse ad avere questa concezione, per cui per lui proprio cioè un film in bianco e nero, sì, un film in bianco e nero per lui è una cosa inconcepibile perché è tecnologicamente arretrato rispetto a un altro. Ma io dopo un po' ho detto vabbè, ti lascio così, ti lascio così. Ti lascio nella tua ignoranza. Tra l'altro, una cosa che mi rinfaccia sempre, però, che una volta gli portai la mozzarella da giù, la prima volta che mangiai della mozzarella vera, ed è morto. Ma tipo lo beccai 3 secondi. Ah, grazie, non l'avevo mai mangiata così. Lo beccai che se l'aveva presa e ci stava mettendo il sale sopra. Io proprio ho urlato: no! Ma da allora lui mi dice sempre che c'è davvero un disturbo post-traumatico da stress. Dal mio nome, mentre ci sta mettendo il sale sopra, dice: che cazzo ci mette a fare sto sale? E mi dice sempre che proprio c'ha mi sogna la notte a volte che io gli dico no, cioè se caga sotto. Io ti capisco. E ringrazia che gliel'hai detto tu e non De Luca. De Luca lo bruciava con lanciafiamme. Io invece ho il problema col pane, che molte regioni fuori dalla Puglia lo fanno senza sale. No, sì. Fermati, molte regioni no, dall'Umbria in su. Vabbè, i barbari, diciamo. Vabbè, lì c'era il problema della tasta sul sale, quindi per fregare il Papa. Cioè, il motivo per cui l'hanno fatto è nobile. Sono passati 1000 anni, ragazzi. Però adesso ce lo potrebbero mettere, sì. Però sai che loro poi hanno compensato. Il concetto è che per loro il pane è sempre, come dire, finalizzato al companatico. Sì. Se ci metti un bel salume, norcino, insomma, delle zone di provenienza che è molto saporito, fondamentalmente bilancia. Ci può stare. Certo, noi che come meridionali siamo più abituati a mangiare anche solo il pane da solo perché è buono, me lo fai mangiare sciapo, c'è un problema, certo. E mi ricordo sempre una mia amica, sempre fuori sede, sempre più o meno gli stessi anni, che lei di Alberobello, e lei aveva scoperto, era andata tipo in Toscana a vedere un concerto, aveva preso del pane, le aveva portato a casa, ma tipo lei totalmente sgomenta di sto fatto, mi sciapito, proprio non riusciva proprio a mangiarlo, cioè sì, provato sì, a mangiarlo in tutti, ma alla fine me lo diede a me, non me lo mangi, che a me piace invece. Io sto cercando di immaginarmi questa espressione in Albero Bellezza, visto che sta tipo a 10 km da casa mia, però bello. il paese dei trulli, figli miei. Sì, ma proprio lei, come lei cercava di metterci qualsiasi cosa, lo mangiava schifato, lo sputava, proprio non riusciva proprio a concepire che fosse commestibile una cosa del genere. Ci ha provato, voraccio, ma no, niente. No, la mia famiglia fino a qualche generazione fa, in realtà un mio parente lo possiede ancora, abbiamo un forno abbastanza grande che si chiama Salus, e io negli anni in cui ho vissuto, vabbè, a Roma in realtà non tanto perché lì l'ho trovato mediamente buono, il pane mediamente scalato, però gli anni che ho vissuto nelle Marche, tra Urbino e Pesaro, voi non avete idea di quante volte ho litigato con i titolari dei forni che scrivevano pane pugliese e non c'era il sale. Vabbè, sì, ma ti ripeto, l'asse è quello. Per il culo un altro. Fino a Lazio il pane è salato per cultura, è dall'Umbria in poi che comincia a diventare Umbria, Toscana, Marche non lo so perché... ci sono stato veramente di sfuggita, però insomma poi salendo al nord poi si ritorna, diciamo, in una sorta di zona mista promiscua, per esempio in Piemonte me lo ricordo abbastanza salato, in Lombardia a seconda dei casi, ecco. Vabbè, in Lombardia il 90% sono ex emigrati pugliesi o calabresi, quindi sì, Certo. Ricordiamo la famosa frase: si ringrazia la regione Puglia per averci fornito i milanesi. Sono più pugliesi che, vabbè, sì, i da Molfetta insegnano, però insomma anche i calabresi sono tantissimi, insomma. No, io 2 anni che ho vissuto a Milano, penso che un lombardo puro sangue non ricordo di averlo conosciuto. No, forse come l'Asciura Brambilla. No, mi hai fatto ricordare, no, in realtà uno c'era, Stefano, poi siamo anche rimasti amici, però quasi tutti erano expat, mettiamola così. Sì. Vabbè ragazzi, io direi che ci possiamo appropinquare a chiudere, anche perché a furia di parlare di pane a me è venuto una certa famina e devo ancora capire cosa succederà per la cena, che non si cucina da sola. Questo è un problema dell'umanità, secondo me, che prima o poi dovremo risolvere. Le cene si devono autopreparare in qualche modo, con una sorta di intelligenza artificiale. Ci deve pensare il frigorifero, non lo so. Io, a me ci pensa mia moglie. Ecco, questa è pure un'altra soluzione cyberpunk. E poi però dopo te tieni la suocera. Vedi, sono i downside. I side effects, appunto. Io, ragazzi, vi giuro, ieri avrei voluto avervi tutti qui a cena perché mia moglie ha fatto dei panzerotti particolarmente buoni, sia fritti che al forno, anche se il barese medio, se sente panzerotto al forno, inorridisce. Cioè viene considerato illegale, come anche la zeppola al forno non viene... Guarda, io avrei partecipato volentieri, però con un'equazione: un panzerotto, una Peroni, un panzerotto, una Peroni, un panzerotto, una Peroni. È andare così, perché insomma è quello che ho fatto più volte ai Ciringhito sul lungomare, insomma, vabbè. Allora, vabbè, lo spaccio di alcolici ce l'ho vicino casa, quindi non è un problema. Ed è aperto. Io mi diverto tantissimo a prendere in giro degli amici baresi, che ovviamente loro per cultura, ma capisco anche il perché, rivendicano, come dire, come orgoglio locale la Peroni, che ha i suoi... E ti dirò di più, perché se ti sposti nella provincia di Taranto, invece la birra è la Raffo. La Raffo, certo. La Raffo, e se ti sposti in zona Foggia è più la Dreher. La Dreher, certo. La Dreher, esatto. Ah, bevi te. Bravo, ti vedo preparato. Guarda, ho assolutamente un'infarinatura pugliese ampissima, soprattutto nella zona di Bari. Ho svariati amici, quindi figurati, ci sono stato tante volte. E mi ricordo appunto proprio tutto questo dualismo. E poi li ho sempre presi in giro, prima di tutto, perché gli ho sempre rinfacciato: sì, però la Peroni è la birra di Roma, fai come te pare. Poi in realtà non è vero neanche quello, per provocarli. Quando sono stati qui a Roma, poi li ho portati al santuario, al ristorante Peroni, e si sono inginocchiati, insomma. Ma il fatto che noi di Peroni abbiamo lo stabilimento a Bari, che praticamente lo vedi qualsiasi direzione della tangenziale prendi. Sì, l'ho visto. Beh, in realtà c'è uno grande anche sulla Casilina a Roma, non è questo? Sì, è vero, mi ricordo, c'ho anche... E allora pure la Coca-Cola è campana, perché a Marcianise è famosa che c'è lo stabilimento della Coca-Cola. Ma la Coca-Cola credo abbia voto per pieno almeno uno stabilimento in ogni regione, perché la produzione e la vendita è tale per cui logisticamente spostarla sarebbe complicato. Comunque Leo Argen in chat espande l'argomentazione che hai testé presentato poco fa, adducendo quindi un panzerotto, una Peroni, una dialisi. Per me non fa una piega. No, vabbè, perché dai? Addirittura la dialisi, che cacchio. Vabbè. Ma più per il panzerotto. Beh, no, vabbè, il panzerotto mica influenza il vene. Fegato, è fritto. Vabbè. Poi Peppe Rizzard ci dice che per gusti particolari c'è la birra Tremona, però lasciamo perdere, insomma. D'altra parte c'è anche la birra Buddace, se vogliamo, insomma. Comunque, vabbè, ragazzi, dai. Direi che l'abbiamo portata a casa, abbiamo anche forse sforato la nostra canonica ora e mezza, quindi sta già dando bestemmie, quindi basta. È ora di andare a cena. Vuole mangiare anche lui. E allora ragazzi, io vi lascio con il nostro gingolino di fine serata, anzi no, neanche, perché vi do un attimo di tempo per salutare, dopodiché vi lascio con un ulteriore spot, quindi a voi il saluto, ragazzi. Marco. Ciao. Ciao Carmine. Ciao ragazzi. Ciao. Lobby. Ciao, buonasera a tutti. Sto salutando a mezz'ora. Sto salutando. Scusate. Ciao a tutti. Abbiamo lo spottino. È partito il mio podcast. E gli scimmioni non leggono Nietzsche? Sarà un podcast sui libri. Ma non parlerò di libri in modo tedioso, no. E sarà piuttosto un vaudeville irriverente di rimandi letterari. Libere associazioni, citazioni, concatenazioni. Dove lo scimmioni, ti piace la trovata degli scimmioni? Scendiamo per un po' dagli alberi e, se non proprio per seguire virtù e conoscenza, almeno per ricordarci che, come ha scritto Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Ma ci sono le astronavi? Facciamo così, tu non lo ascoltare, ti faccio un disegno. Gli scimmioni non leggono Nietzsche, un podcast sui libri, senza astronavi.